Pochi temi storiografici nel già non ricco panorama meridionale risultano tanto trascurati quanto quelli relativi al problema delle circoscrizioni di potere e amministrative, sia pubbliche che feudali. Non che di recente non si sia riconosciuta l'importanza dell'argomento, ma a tale generico interesse non sono poi seguiti studi che abbiano portato ad apprezzabili risultati. Tra i primi a richiamare l'attenzione sul problema è stata una decina di anni fa Gina Fasoli, la quale non ha poi però fornito che un contributo problematico, la cui tesi di fondo non appare oggi condivisibile. Più recentemente si è avuto un pregevole saggio di Jean-Marie Martin sull'organizzazione del territorio in età sveva e dei brevi scenni sull'argomento, di valore molto diseguale, ad opera degli autori delle ampie sintesi di storia delle varie dominazioni succedutesi nel Mezzogiorno, a cominciare da quella normanna, uscita appunto nella recente storia del Mezzogiorno. Per l'età longobarda, in verità, si può però fare tesoro, anche per affrontare questo tema, di una formula di Mario del Treppo, il quale una quindicina di anni fa proponeva, per spiegare il senso più profondo della storia della Lombardia minore, di far ricorso, piuttosto che ad una teoria della Landeswirtschaft, ad una della Amtswirtschaft. Una formula, quest'ultima, che non cessa di stupirmi per la sua fecondità. Portata alle sue estreme conseguenze, puntualmente verificata, essa permette di negare, per esempio, la diffusione del cosiddetto fenomeno dell'incastellamento nella regione prima del tardo XI secolo e quindi prima dell'età normanna, così come quella di qualsiasi rapporto di tipo feudale o anche solo prefeudale, ammesso che il termine abbia un significato logico. E del pari, se oggi, dopo aver appunto verificato la validità di quella formula, non dirò ancora che il Mezzogiorno longobardo nel X e XI secolo non conosceva una distrazione circoscrizionale minore, certo sono molto tentato dal farlo, poiché una documentazione tanto abbondante quanto univoca trascina corticosamente in questo senso. Al di là delle rilevanti differenze di assetto statale e di ordinamento pubblico, pur evidenti tra le aree longobarde e quelle bizantine della regione, così come all'interno stesso di questi due ampi schieramenti etnici, oltre che politico-territoriali, minimo comune denominatore dell'area geografica corrispondente al mezzogiorno continentale attuale, sembra essere stato lungo tutti i secoli dell'Alto Medioevo il formarsi all'interno del ceto aristocratico cittadino di una forma di governo più o meno rigidamente dinastica, che si traduceva evidentemente nell'esercizio autoritario del potere da parte della famiglia regnante. Attorno al principe duca longobardo, per esempio, non vi erano che due ufficiali importanti e che rivestissero ruoli di reale potere: il referendario, che era a capo della sua cancelleria, e il tesoriere, che ne vigilava il patrimonio. Tutte le altre cariche sembrano essere state piuttosto dei titoli palatini o onorifici, non corrispondenti a funzioni ufficiali reali. E quindi all'ombra della corte stessa, percorrendo il cursus honorum amministrativo, che ci si spianava la strada verso il palazzo e il trono principeschi. La carica di tesoriere a questo scopo sembra la più adatta e propizia. E facendo leva su di essa che giunsero al titolo principesco, per esempio Grimoaldo IV Storzaitz nell'806 e poco più tardi Radetzky I nell'839. E insomma, nell'ambito stesso della corte, spesso all'interno dello stesso gruppo parentale regnante, e non in periferia, ad opera di persone che basano la loro potenza su beni fondiari e poteri signorili locali, che maturano le numerosissime congiure di palazzo che punteggiano le vicende storiche dei potentati campani di quel periodo. Tanto appunto che si è parlato di Amtswirtschaft, signoria d'ufficio, piuttosto che di signoria territoriale, per spiegare le origini delle fortune signorili e politiche di molti personaggi o di interi gruppi familiari attivi in quegli anni, i quali avrebbero appunto sviluppato il proprio potere grazie alla loro posizione privilegiata di detentori di prestigiosi uffici di corte e non in virtù del possesso di ampi beni terrieri e di castelli in località periferiche, nelle quali essi sarebbero poi poco a poco dinastizzati, rendendosi in seguito autonomi dall'autorità centrale anche dal punto di vista politico e giurisdizionale. Qualcosa di simile in verità sembrerebbe avvenire a Gaeta a Capua, dove i membri cadetti delle famiglie al potere ricevono o si distribuiscono, ma in piena proprietà si guardi, delle contee o dei vassallati. In particolare a Capua, dopo la morte di Landolfo I, 879, i suoi eredi si spartirono quasi tutti i vassallati della contea, trasformandoli a poco ugualmente essi stessi in contea. Dotati di castelli, ampie autonomie politico-giurisdizionali e in qualche caso, come a Teano, di monetazione propria. Nello stesso 879, ad opera di Atenolfo, viene fondato il castello di Capoli, che diverrà in breve un centro sede di Gaspaldato. E la stessa evoluzione, dalla costruzione del castello alla trasformazione di quel territorio in centro gaspaldale e poi magari comitale, vivranno le vicine località di Caserta, Caiazzo, Teano, Sesso e altri. L'accordo del 12 marzo 1879 tra gli eredi di Landolfo I così vedrà l'assegnazione a Pannelonfo delle fortezze di Teano e Caserta, a Landone di quelle di Sessa e del vecchio Benolas, l'anficato romano capuano, ai suoi cugini Landone e Atenolfo di quelle di Campi e Caiazzo. Diversa la situazione di Napoli, Amalfi, Benevento e Salerno, dove i figli e i discendenti dei principi e dei duchi locali continuano a vivere nelle rispettive capitali e all'ombra del trono. Ricoprendo sì sovente la carica vescovile cittadina o qualche ufficio palatino. Ma senza possibilità di radicarsi su di un territorio periferico e di rendersi in tal modo politicamente autonomo. In ogni caso, lo si ripete, la base di potere su cui si poteva contare che emerge nel panorama politico locale all'epoca della regione era sempre il controllo di alcuni uffici cardine, oppure derivava dalla trasmissione ereditaria di beni e poteri della dinastia d'appartenenza. I Castaldi nel Mezzogiorno, più che funzionari regi con compiti di controllo sui beni demaniali periferici, rivestono spesso le caratteristiche di dignitari di popolo. Vivono cioè presso il principe e in moltissimi casi alla loro qualifica non si accompagna la specificazione geografica dell'ufficio. Si dice cioè che sono Castaldi, genericamente, non Castaldi di una circoscrizione particolare. Quando invece ciò avviene, appare evidente che i centri gastaldali sono sempre delle città. Obiettivo comune di tutti i gastaldi sembra poi essere quello di ottenere rifiutarsi del titolo comitale, magari passando attraverso quello vice comitale. Saltiamo appunto degli esempi e passiamo alla dominazione normanna. Con l'arrivo dei normanni si può parlare di una vera e propria rivoluzione nell'organizzazione territoriale del Mezzogiorno. Le bande normanne che giunsero in Italia meridionale nei primi anni dell'undicesimo secolo erano autonome l'una dall'altra, agivano ciascuna per proprio conto, rispondendo alle loro azioni unicamente all'autorità del proprio capo immediato. Soltanto dopo che si furono insediate ad Aversa, essi riconobbero a Ranulfo Tremugno il titolo di conte, egli fu infatti il primo a essere investito di questa dignità in Italia. Insediati nei castelli da loro stessi costruiti in gran copia ex inis al momento della conquista, i milites normanni si ritagliano facendo perdere su di essi delle vere e proprie signorie territoriali, che provocano naturalmente dei notevoli mutamenti nell'ordinamento circoscrizionale della regione. A partire dall'ultimo quarto del XII secolo, infatti, il castello diverrà un elemento autonomo di aggregazione territoriale, dando luogo a compatte nuove circoscrizioni che adesso facevano capo. Sicché, se prima della riorganizzazione territoriale operata dai Normanni una località veniva definita, per esempio, sita in loco Monte Aperto, dopo di allora sarà individuata come esistente in pertinenzis de castello Monte Aperto, segno che essa sarà entrata a far parte della circoscrizione territoriale controllata dal signore di quel castello. Sembra insomma evidente che un ambizioso disegno di nuova organizzazione politico-distrettuale sia man mano divenuto sempre più chiaro agli occhi dei capi Normanni. Il fenomeno per cui una rocca, di recente antica fondazione poco importa, divenga a un certo momento polo di aggregazione territoriale, riducendo l'estensione degli distretti preesistenti o formandoli di nuovi, è infatti documentato un po' in tutto il Mezzogiorno ed è strettamente legato al consolidamento delle famiglie feudali normanne, che tra l'undicesimo e l'undicesimo secolo vennero riplasmando l'unità meridionale la geografia del potere. Tralascio in questo caso gli esempi, un paio di esempi concreti. Lo strumento attraverso il quale i Normanni tentavano di rendere operativo questo loro nitido e razionale progetto politico-amministrativo a struttura rigidamente piramidale fu ovviamente il rapporto feudale, che finì con il legare attraverso alcuni gradi intermedi della scala gerarchica il mille salvi scontro al punto al duro e infine al sovrano. E che si trattasse di una scelta consapevolmente fatta e tenacemente perseguita è dimostrato da alcuni episodi della biografia di Roberto Giscardo, relativi proprio agli anni in cui cercava di consolidare il potere locale. Nel primo di essi lo vediamo muovere guerra contro Goffredo di Conversano, tra l'altro suo consanguigno, per costringerlo a prestare il servizio feudale anche per il castello di Montepeloso, che poi gli teneva in signoria insieme a Montecotto. Goffredo però si rifiutava, poiché non lo aveva ricevuto in beneficio da lui come gli altri, ma si aveva conquistato da solo in battaglia. Roberto non voleva sentire ragioni, lo attaccò e lo forzò a prestare il servizio anche per quel castello, come già per gli altri. Nel secondo, un signore normanno, Riccardo, un conveniente di minore di Riccardo Guarretti, il signore normanno di Capua, nel corso di un viaggio che stava effettuando, fu intercettato dai duemila di Guiscardo, condotto a forza davanti a lui e quindi tenuto prigioniero finché non accettò di rimettere tutta la sua terra, che aveva ricevuto dal principe Riccardo, nelle mani di Luca. Soltanto allora fu liberato e, dopo essere stato fatto cavaliere suo uomo, ricevette la terra in restituzione, tenendola da lui in avanti per suo conto. Probabilmente a causa del carattere stesso della conquista normanna del Mezzogiorno, avvenuta in maniera caotica e spontanea, quasi anarchica, non certo diretta e ordinata dall'alto come in Inghilterra, dove le sciare passavano automaticamente nelle circoscrizioni comitali e normanne, il regime feudale non riuscì però ad imporsi come unico tipo di organizzazione politico-sociale della regione. Adesso fu infatti affidato soltanto in un secondo momento il compito di coordinare una serie di poteri signori locali già formati e funzionanti, e per di più esso non poté mai coprire con le sue maglie tutta la regione, né riuscì ad organizzarla perfettamente entro i propri schemi. Le contee infatti non costituivano dei nuclei di poteri omogenei e compatti, automaticamente risultanti dalla somma delle diverse signorie di castello presenti al loro interno, ma risultavano continuamente interrotte dalla diffusissima presenza entro i loro ambiti distrettuali sia di alloggi che di forti nuclei di potere anche feudale concorrenti. Lo Stato normanno è dunque basato sulle contee, sia sulle nuove, fondate dai capi normanni che si erano divisi territori bizantini conquistati, che sui vecchi potentati longobardi, pari pari promossi, conservando i loro confini statali, in contee. E sulle contee continua ad essere fondato anche dopo l'istituzione della monarchia. Nonostante le reiterate rivolte baronali, Ruggero II mantenne in piedi il vecchio impianto organizzativo feudale, sia pure con qualche accorgimento. Anzitutto attribuì ai suoi tre figli i tradizionali titoli della sovranità normanna sul continente, il principato di Capua, il ducato di Puglia, che aveva come capitale Salerno e che grosso modo corrispondeva all'area di quel vecchio principato longobardo, e il principato di Bari. In secondo luogo strutturò tutto il territorio conquistato in due grandi province sovracomitali, appunto il ducato di Apulia e il principato di Scapua, oltre alla Sicilia. Provincia amministrata da funzionari reggi con competenze amministrative e giudiziarie, reclutati tra i ranghi della feudalità e destinati in futuro a grande fortuna, i giustizieri. E da funzionari con competenze nell'ambito finanziario, i camerati. Istituì infine le commestative, che raggruppavano più contee e più titolari, i contestabili, dei feudatari, che si occupavano dell'organizzazione del servizio militare dovuto appunto dai vari compiti. Ben riassuntivo di tutta questa problematica appare l'esempio molisano. Nel X secolo nella regione, divisa tra i principati di Capua e Benevento, si sviluppano nuovi castaldati dotati di grandissima autonomia e presto sviluppatisi in contee: Venafro, Siena, Larino, Trivento, Boiano, Campomarino, Teramo, Molisano e Pietrafondo. Più tardi, verso la fine del X secolo, tutti questi centri verranno inglobati nelle due contee normanne di Molise e di Loreto. Dopo varie vicissitudini, altrettante più ribellioni, la contea di Molise venne avocata al demanio di Federico II e quindi governata dal giustiziere di Terra di Lavoro, che si trovò così da allora in poi a capo di un giustiziarato detto appunto Terra di Lavoro e contato di Molise. Quindi la contea passa automaticamente a diventare un giustiziarato. Territorio che sfocerà infine nella regione odierna. Siamo qui con Federico di Svevia al secondo grande mutamento di rotta nell'organizzazione territoriale e meridionale del Medioevo. A partire dall'incirca dal 1220, infatti, lo Stato non appare più fondato, come ai tempi di Ruggero II, sul mosaico delle contee feudali, ma piuttosto articolato sulle nuove province, i giustiziari appunto, in cui viene divisa l'amministrazione giudiziaria e finanziaria dello Stato. È ovvio che le contee e le circoscrizioni feudali non spariscono, saranno ben meglio dei dotati di poteri anche in alta giustizia ancora nel tardo XV secolo. Ma le articolazioni locali a cui si farà solitamente riferimento saranno appunto i giustiziati. Proprio nella contea di Molise, nel giro di pochi anni, si assiste al passaggio dai classici comitati itineranti a quelli istituiti invece dai giustizieri e che saranno più regolati. Riprendendo e rendendo effettivamente operativo l'abbozzo di riorganizzazione normanna, Federico II divise il regno in 13 giustiziati, manifestando, come già notato nel XVII secolo Pietro Giannone, quello che forse più e meglio di ogni altro abbia scritto su queste nuove circoscrizioni, manifestando, dicevo, una straordinaria comprensione e un forte rispetto per le singole realtà geografiche, storiche e addirittura antropologiche presenti nel Mezzogiorno. Ogni giustiziato, qui era preposto un giustiziere che restava in carica un anno e veniva per lo più reclutato dalla piccola aristocrazia, era costituito da una serie di terre, vale a dire di luoghi abitati, non importa di quale grandezza né di quale natura giuridica, siamo dunque lontani da qualsiasi urbanocentrismo, che costituivano le cellule in cui operavano a vario titolo tutta una serie di funzionari amministrativi. La dialettica tra contee e giustiziati è ormai definitivamente conclusa a vantaggio di questi ultimi. Ben poco è infatti con il passaggio del regno sotto la dominazione anglica. Ed anche da questo peraltro capitale punto di vista, mi pare che sì, che se proprio una continuità voglia essere ricercata, essa andrà piuttosto individuata tra la dominazione svela e quella anglica, piuttosto che non tra quella normanna e quella svela. Ben poco muta, dicevo, se si esclude un certo ritorno dell'elemento feudale, già mortificato dalla politica feudalista. Già sotto Carlo I vengono infatti ricomposti, in verità a beneficio dei figli del sovrano, ma presto passati in altre mani, i due grandi principali di Salerno e di Taranto, tra l'altro dotati del diritto di alta giustizia e quello di Taranto addirittura di quello di datare i propri documenti unicamente secondo gli anni di governo del principato. Quanto ai giustizierati, si assiste ad una suddivisione di quello di Abruzzo e di quello di Principato in Citra e Ulita, e ne porta pertanto il numero complessivo da 13 a 15. Basi territoriali più ampie erano invece le segrezie, uffici di nuove istituzioni in numero di 4, poi 3 quando la Sicilia fu presa, che accorpavano più giustizierati ed erano preposti alla riscossione di tutta una serie di entrate pubbliche. La cellula territoriale di base resta in ogni caso il e tale rimarrà anche nel successivo periodo aragonese, nonostante la nostalgia di qualche umanista per le vecchie province auguste. Un'età, quella aragonese, che vide forse il massimo sforzo unificatore da parte della monarchia, attraverso una serie di misure esemplari, come la riforma dei passi, l'abolizione di molti di essi indicati opportuni, l'unificazione dei pesi e delle misure all'interno delle province del regno e l'istituzione dei 10 reati. Sorta di alte regole del monarca, il cui compito era quello di provvedere a meglio inquadrare nell'unità del regno la multiforme realtà delle province. E mi piace concludere a questo punto con la citazione di una bella pagina di Manuel III, il quale richiama con forza l'attenzione sul fatto che se scendiamo sul piano della realtà, incontriamo difformità geografiche, varietà di tradizioni storico-culturali, disomogeneità di strutture socio-economiche quanto mai profonde e contrastanti. Esse trovano nelle articolazioni amministrative delle province o giustizierati una prima forma di coagulo e di armonizzazione, ma anche la legittimazione di antiche persistenze o di nuove resistenze, regionali e subregionali, comunque sempre di ostacolo all'azione unificatrice della monarchia, la quale peraltro non va vista come un rullo compressore proteso a cancellare ogni differenza locale, e all'opposto le configurazioni locali e periferiche non si pongono come forza programmaticamente disgregatrice dell'unità monarchica. Il rapporto non è di contrapposizione antitetica, ma più articolato e complesso. Già le strutture socio-economiche di alcune aree erano così rigidamente solidificate e la loro interna fisionomia così originariamente organica che sarebbe stato impossibile frantumarle per riassorbirle nell'omogenea unità del corpo statuale. Altre aree gravitavano o vi erano prepotentemente attratte nell'ambito di potentati stranieri, come la terra d'Otranto verso Venezia e l'Abruzzo verso Firenze e Roma. Lo spazio del regno era dunque variamente articolato, anzi c'erano spazi diversi. Grazie.